una versione, quest'ultima magari più intimista, ma andrà in onda anche lui fino alla mezzanotte e dintorni. I consueti e piacevoli saluti che iniziano con Giorgio Falcone di Curehead K, con il quale inizieremo a breve, che ci sta ascoltando a Bologna. Un saluto a Cecilia Miradoli di Pindar, Maya Federissima dalla Sardegna, Doriana a Taranto, il medico della peste, Simone Scalise di Audio Caos a Roma. Un bacio a Anna. Ci ascolta anche Tiziano Farinacci di Pigreco. Salutiamo Cordis Cinti Serpente nella persona di Giovanni Lisi, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, il già citato Antonio Zovet di Omicidio da Firenze. E poi Laura, Dario Ricchi di Progetto Nei Name insieme a Sara K.O. Fontana, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo. Giuseppe Verticchio di NIM, grossa realtà sperimentale proprio qui di Roma. Salutiamo il mago della fisarmonica, Sisto Palombella, in Olanda Moschita di Miramar, Like Awake, storico progetto Ambient. Allora, andiamo ad iniziare con il già citato Giorgio Falcone, nel caso di Curehead K, una emergente realtà italiana che ha sfornato un ottimo lavoro dal nome Into the Labyrinth, identico a un album dei Deccan Dance che tutti ricorderanno, ma la musica è diversa e più incentrata su una commissione ottima tra ambient e tribalità elettronica. E questa sera andiamo proprio a privilegiare un episodio più, come dire, da drone music, dal titolo 58 Years. dei momenti più rarefatti, più oscuri, come dice giustamente Ernesto Brusati, quasi boschivi, una bella definizione. Ed effettivamente nella copertina bellissima c'è un bosco pieno di nebbia con una persona che passeggia dentro questo bosco, e magari è lo stesso Giorgio Falcone che vado a salutare. C'è anche del vago pulviscolo digitale ed elettronico che arricchiva questa quinta traccia, questa 58 Years. E la componente elettronica che ha la sua importanza in questo Into the Labyrinth. Saluto intanto Flavio Derbecante di Noise Cluster, Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, di nuovo Dario Righi e Sera Capo Fontana. E adesso si rimane in Italia, sempre cose abbastanza rarefatte, ma mediate attraverso una sensibilità più affine al doom, al shoegaze. Trattasi di Bosco Sacro, un nuovo progetto, un quartetto capitanato da personaggi noti nella scena, diciamo, sperimentale italiana, ossia Paolo Monti, già di Star Pillow e Diamond, Giulia Parin Zecchin di Giulinco, e anche Francesco Vara e Luca Scotti. Una delle novità più interessanti di questo 2023 iniziato da poco si chiama Gem, e quindi ci ascoltiamo Ice Was Pure e Fountain of Wealth. Thank you. qualcosa di anche qui di ambient, di onirico, ma anche etereo, come giustamente ci dice Giovanni Lisi. C'è della psichedelia, degli accenni di kraut. Ed è questo uno delle tantissime proposte che passano qui a Prove Tecniche di Trasmissione, che necessitano, per essere apprezzate al pieno, anche di più ascolti, ovviamente, giacché la musica che si sente in questo spazio è spesso complessa e quindi già mi fa piacere che venga apprezzato questo album, ma vi consiglio di andarselo anche a risentire attraverso il profilo Bandcamp di Bosco Sacro, dove c'è questo gem. E quindi li rivado a citare i componenti: Giulia Parin Zecchin, voce e testi, Francesco Vara alla chitarra e Luca Scotti la batteria, entrambi fanno parte anche dei Tristan de Cugna, e poi Paolo Monti alla chitarra, già apprezzato da queste parti in The Star Pillow. Saluto Paolo Contucci, Bruno Zailin, Nicola Locci, un saluto anche a lui. Domani, per chi fosse interessato, chiaramente domani mattina comparirà il podcast nei consueti spazi, sia sul sito della radio sia qui su Facebook e dintorni. Ed è anche vero che ci sono anche delle tracce trip hop decisamente scuro, ben assortito con le altre influenze. Ed ora dall'Italia ce ne andiamo in Grecia, chiaramente sfruttando l'ennesima compilation di Raffaele Pezzella. Il titolo è Anthology of Contemporary Music from Greece, Greek Music Survey. Questa sera manderò tre tracce di diversa durata e anche di diversa concezione e struttura. Cominciamo con DA di Linea, qui decisamente anche qui rarefatto. E poi le sperimentazioni di Michalis Paraskasis con Fata Morgana. E poi anche le elucubrazioni elettroniche di Lefteris e Papa Dimitriou con Endotine al Bronze Ensemble. Eccolo qua, Michalis Paraskakis, e questa è Fata Morgana. Sicuramente Vortici Ambient, stile Lasmord effettivamente, ma anche riferimenti alla scuola contemporanea dei vari Karl Hans Stockhausen, Luigi Nono, eccetera. E il prossimo è Lefteris Papadimitriou, e questa è Endonethyal Bronze Ensemble, leggermente diversa nella struttura armonica. Bella anche questa traccia di Lefteris Papadimitriou, definito anche un Ekdar Varese in acido, effettivamente, o qualcosa dei Coil, o qualcosa anche quasi di IDM, Autechre, effettivamente Nars with Wound. Vorrei citare una frase di Ernesto Brusati che è sintomatica del momento: se vado avanti così dovrò prendere la pillola del giorno dopo per via auricolare. Questo per confermare la lunga fase ormonale che si scatena ogni volta che entriamo in contatto attraverso i miei spazi qui a Radio Onda Rossa. Ovviamente ne sono più che felice. Intanto mi devo scusare anche con Paolo Monti, perché ho taggato un altro Paolo Monti che mi ha scritto, mi ha detto non sono io, ma può capitare. Entrambi sono tra i miei contatti, ho sbagliato il Paolo Monti e spero di averci azzeccato Aurora. Sì, ci ho azzeccato. Saluto Antonella Germano Brucato dalla Sicilia. Bentornata. E io vado avanti dalla Grecia, una Grecia un po' anomala, più glaciale rispetto a quello che può immaginarsi, e andiamo in Islanda. Qui effettivamente, con i suoni che ci sentiremo, molto attinenti al clima e all'attitudine musicale, si chiamano Aska. Questo è il loro secondo album, Ut vid Sandingra, e noi ci ascolteremo proprio Ut vid Sandingra numero 2, Annars Stadar. e anche la terza parte di Ut Bid Sandengra. Ci inoltriamo in territori dark wave, minimal angst pop e naturalmente con tratti di sperimentazione di scuola Galat Corro. Intanto vado a salutare Olivier Ducasse dei CCC, CNCNCN, che peraltro hanno suonato qui a Roma in dicembre in una bellissima performance, e dopo c'era anche il sottoscritto a mettere musica. Sono venuti negli ultimi anni un paio di volte a Forte Prenestino, sempre belli appuntamenti, lo ringrazio e lo saluto di nuovo. Ernesto Brusati al limite del pianto dopo la tempesta ormonale, attraverso questi Ashka che effettivamente fanno una spettrale minimal dark wave, ma quando si aderisce alla Galat Corro il suono, si sa, è più o meno sempre questo, a partire dai fondatori November Novelet e Ausa Rafna. E poi comunque ci sono progetti anche più grezzi all'interno di quella etichetta teutonica. Gli islandesi Ashka, che ci ascolteremo anche loro la prossima settimana. E invece finiamo questa sera l'ascolto di un bellissimo album dello scorso anno dal nome Olatazzi del greco INFS. Si torna dunque nella Grecia anomala, ma la Grecia, i più esperti sanno che è una culla di musica da ogni punto di vista, elettronica, ambient, industrial. Conferma anche Olatazzi, per l'appunto. E parte l'ipnotica Zalisu.